alzi la testa, tu vivi e lascia vivere la cosa più onesta. Segui l'istante in cui la mente protesta, ma vivi e lascia vivere nella maniera giusta. Tu vivi e lascia vivere, sorridi e lascia vivere. Tu vivi e lascia vivere, sorridi e lascia vivere. Ne sento tante quante al giorno, non so dire, di quel padano razzista che sta ad inferire contro i gay, i musulmani e noi terroni. Vorrebbe eliminarci a tutti con un calcio nei coglioni. Io tento ad ignorare, io vivo e lascio vivere, ma contro certa gente no, non si può fingere. Se porgi l'altra guancia tu lo schiaffo non avrai, ma una coltellata per colpe che non sai. Io mi guardo solo il mio, ma che ci posso fare? La mia la devo dire se uno stronzo sta a parlare. Se spara cazziatoni mi girano i coglioni, pensando a veri porci da borghezze e poi maroni. Dovremmo fare finta, ognun per la sua strada, indifferenza all'apice, poi vada come vada. Io vivo la mia vita, tu tenti la tua sfida, in questa società che ignora il senso della vita. C'è chi offende e pretende di stabilire le mie regole, di cambiare i miei spunti, i miei punti e pure le virgole, di avere l'attenzione rivolta verso di sé. Per ogni spazio vuole il darsi da un giudizio su di te, quindi vive e decide che gli altri non li lascia vivere. Le vite recide nel ride pensando al suo essere, appiccia la miccia nel momento in cui si impiccia. Guarda il tuo volto però pensa alla tua faccia, resti intollerante se l'ascolta con chi è nero, con chi è un diverso pensiero, con gli ebrei o con i gay, che li uccide nella piazza per un bacio dato in pubblico omofobico, che ammazza una razza che sta tra noi. Scateni il panico e manda la polizia, vuole fare pulizia facendone una razzia, ma per me fa una pazzia mettendosi a camuria con gente sempre pia, spessa come B.A.G. C'è chi diffonde malattie di carestia, confonde la cortesia con atti di barbaria, manda gente in avarie, la spia come la CIA. Tu fai la cosa giusta come i film di Spike Lee. La domanda è quella stessa, ma da che parte sta il vero? Sicuro sta nel mezzo e con il pregiudizio in zero. Ogni indizio ha il suo prezzo ed ogni flop un brutto scherzo, ma c'è il sol per ogni verso e riflessione alla Scott Aaron. È un compromesso e so che a priori non ci sto, che ho promesso di mettere me stesso sopra i battiti. E tu sappi che l'essere è capire che chi vive da apparire è sarto di abiti eleganti, che tanto chi si è perso son pretesto che alle volte tutto ciò di cui ha bisogno, come disse Curtis Walker, che il torto che inferisce spesso il prossimo ferisce. Chi fallisce perde il nesso e ti dà addosso le sue colpe, piuttosto fra la libertà e per chi c'è i soldi, gli stessi a cui disagi non rappresentano scogli. Sapessi me ne naufragi, i flash con brutti viaggi, di perché restiamo ostaggi di scelte firme sui fogli. Da sempre chi promette non sa di chi ha sofferto, e se cerchi la verità cerchi un'osi nel deserto. Certo, lo dico con tutta la mia onestà, ormai siamo alla frutta se la falsità ti avverto. Sento di rimanere uguale alle tue critiche, per me son solo minime al di là dell'incredibile. Penso già che sia superfluo pure dirlo, prendi sto consiglio, vivi e lascia vivere. Importa che la gente non abbassi la testa, tu vivi e lascia vivere la cosa più onesta. Segui l'istante in cui la mente protesta, ma vivi e lascia vivere nella maniera giusta. Importa che la gente non abbassi la testa, tu vivi e lascia vivere la cosa più onesta. Segui l'istante in cui la mente protesta, ma vivi e lascia vivere nella maniera giusta. Importa che la gente non abbassi la testa, tu vivi e lascia vivere la cosa più onesta. Segui l'istante in cui la mente protesta, ma vivi e lascia vivere nella maniera giusta.